Sono già i 5, eh? Mix 24 di Giovanni Minoli. Sono al topolino amaranto, si va anche un incanto nel 46. Ti ricordi da ragazzini che truccavamo il motorino? Si allarga il caso Volkswagen sulle emissioni truccate. 11 milioni le auto coinvolte. Per far fronte ai costi dello scandalo, il colosso tedesco ha annunciato che ha accantonato 6 miliardi e mezzo. L'amministratore delegato da Volkswagen, tra l'altro bellissimo, ha subito ammesso: sono stato io, ho già pronti i 6 miliardi per la multa. La bufera del Dieselgate investe anche l'Audi. Sarebbero oltre 2 milioni le auto truccate. Guai anche per la BMW. Come gode Marchionne in questo momento? Bel momento. È un bel momento. Un buon ora ci manca solo uno scandalo Toyota, uno Audi, uno Ford, uno Hyundai, uno Honda e diventiamo leader mondiale. È un piano a lungo termine. Ora la domanda che si pongono i clienti della Volkswagen in giro per il mondo è sempre la stessa: è truccata anche la mia auto? È appena finito. Perché i tedeschi riescono sempre a fare le cose meglio di noi? Ora io pensavo che noi sulla truffa fossimo i leader mondiali, no? Che sembra di smalto e corre con noi. Udo Gumpel, corrispondente dall'Italia di NTV e per il gruppo della TV tedesca RTL. Ecco, per i tedeschi è dura sentirsi truffatori, almeno come gli italiani? Ma se vogliamo generalizzare, gli italiani come gli italiani sono un popolo di mafiosi, così come i tedeschi truffatori. Mi sembra che non è, a parte dello scherzo, un approccio giusto. La Merkel rischia, parlando seriamente, se sapeva? Assolutamente no, perché la Merkel non rischia, perché il problema in realtà è peggio. Peggio perché il livello è europeo, perché se le normative europee, Euro 5, Euro 6, prevedono addirittura il divieto espresso di questo marchingegno software, sì, vuol dire che a livello europeo, ovvero a livello perlomeno tecnico delle persone che hanno stabilito le regole Euro 5 e Euro 6, si sapeva l'esistenza di questo software, perché dice è espressamente vietato il funzionamento di un software generico. Ecco, ma cosa significa? Anche il Ministero del Trasporto in Italia lo doveva sapere. Ma adesso stiamo parlando della Germania in questo momento. No, ma perché tu volevi... Ho capito benissimo. Io voglio sapere se la Merkel l'avesse saputo, deve dimettersi oppure no. Può darsi che non lo sapesse. Vabbè, allora se la Merkel avesse le rotte sarebbe una sedia a rotelle. Io no, credo è che non una sia... risposta. Vabbè, no. Insomma, mi sembra eviti la domanda. Ti capisco che tu la vuoi buttare sulla Merkel. No, io non la voglio buttare, io voglio sapere cosa pensi. No, la Merkel del governo tedesco ha una grossa responsabilità. Quale? Per aver, molto semplice, per aver fatto il lobbying a favore dei motori diesel da anni, ben sapendo che i produttori tedeschi sono il più forte reparto del lobbying del diesel, ma non sono mica solo i tedeschi. No, ma quindi, ma naturalmente, però, dato che stiamo parlando di questo, dell'origine, diciamo che se il governo tedesco ha fatto lobbying, il governo che faceva lobbying era informato del perché lo faceva. No, questa è una tua conclusione, no, chiedo, assolutamente non veritiera. Io... Però è una suggestione. È un'ipotesi. Che fai. È un'ipotesi. No, ma sì, vabbè, possiamo anche ipotizzare, come ho detto, che la Merkel ha le ruote. Mi sembra ma non c'ha le ruote. Questa ipotesi. Ma guarda non che ha io le non... ruote. Meno male che non ha le ruote. Io considero la Merkel un grande leader europeo, quindi mi dispiace. Non allora, sei fuori strada. No, tu sei fuori strada perché non vuoi considerare il fatto tecnico che ma sta, secondo anche la cifra dei 10-12 milioni di motori per il momento può essere vera o falsa, campata. Non si sa, ecco. Beh, si riduce probabilmente notevolmente perché nei motori Euro 4 anche non perché, ha nessun significato, scusami, perché questi valori non avevano significato. Posso farti una domanda? Dico, se fosse che bisogna richiamare 11 milioni di veicoli, mi sembra che sia, cioè, sarebbe da chiudere la Volkswagen a quel punto, temo, no? Quindi non credo, perché i soldi la Volkswagen ce l'ha. Se tu vai a vedere nel bilancio della Volkswagen ci sono 38 miliardi di contante. Ah, perfetto, quindi eventualmente le multe si possono pagare. Le multe, però il problema è molto più grave, che riguarda tutto il settore diesel dal primo gennaio. Forse non l'hai visto, e l'ICCT di Berlino, che peraltro un direttore tedesco, un istituto tedesco che hanno trovato la truffa già un anno fa, questo ICCT di Berlino sì. ha visto i test di strada, io ho visto sì. anche le foto, c'erano anche macchine italiane. Siamo in chiusura, sicuramente. Immagino. Sono 13, no, non è che sicuramente, io parlo di fatti. Ha detto sicuramente, più fatto di dire sicuramente, cosa devo dire? 13 macchine diesel di 6 prodotti europei, solo uno rispetta i limiti Euro 6 dal okay. 1 gennaio. Significa un gigantesco problema per l'intero naturalmente. Senti, volevo farti un'ultima domanda perché siamo fuori tempo, ma per l'opinione pubblica tedesca è stato uno shock questa notizia o no? È uno shock terrificante, una tempesta, perché Volkswagen rappresenta comunque il Made in Germany e loro hanno approfittato di questa immagine per truffare i clienti, i dipendenti, perché questo è chiaro che avrà anche gravissime ripercussioni sul numero dei dipendenti, perché non puoi pensare che la gente continua a comprare come prima. Motori diesel come prima. Certo. Perciò le ripercussioni sono gravi anche per l'Italia. L'intero reparto automobilistico cambierà profondamente. Dopo questa appassionante difesa di Uto Gumpel, entriamo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. La nostra domanda di oggi è: lo scandalo della Volkswagen è solo un Dieselgate? Mario, da dove cominciamo? Cominciamo dal 18 settembre, allora, cioè quando l'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana accusa il gigante dell'auto di aver aggirato le emissioni, i controlli sulle emissioni di gas con un software creato ad hoc. Questo è poi alla fine il ridotto del caso. Certo. Sono 11 milioni di auto coinvolte, un altro numero importante, 6,5 miliardi di euro, in realtà saranno di più, è l'importo del fondo rischi, per il momento accantonato per sostenere i costi dello scandalo. Altra data importante, il 23 settembre si è dimesso Winterkorn, al suo posto c'è Martin Müller, che era il capo della Porsche, e Berlino ha aperto un'inchiesta penale. Ricostruiranno la fiducia? Questo è il tema. È dura. Insomma, Mission Impossible, l'avete riconosciuto. Sentiamo che cosa sta succedendo intanto a chi fa il mestiere di vendere le auto. Abbiamo Calogero Pedalà, titolare di una concessionaria Volkswagen a Como. Dopo lo scandalo Volkswagen, che cosa è capitato? Ma assolutamente nulla. Ma dopo lo scandalo la Volkswagen vi ha detto non vendete più, no? Mi pare. Vi ha invitato a fermare le vendite? No, assolutamente no. Ci ha fornito una circolare. Avremo informazioni successivo a questa circolare. Vabbè, però quello che si legge sui giornali è che la Volkswagen dice basta, ritirate le macchine. Aspettiamo istruzioni, semplicemente questo. Vi hanno detto quando arriveranno le istruzioni? A breve, ma non una data ben precisa. Ma la gente intanto vuole restituirvi le macchine, vuole dei danni cosa? No, assolutamente no. E le vendite sono diminuite improvvisamente? Allora, le vendite stanno andando normalmente, tranne qualche cliente che intende aspettare in attesa che si risolva questa questione, ma non sta succedendo nulla. Quindi la Volkswagen non vi ha dato consigli? Ci ha detto di aver pazienza, di aspettare. Io li conosco da 50 anni, perché io confido nella industria tedesca, della nostra casa. Ma lei si aspettava un problema del genere? No. Però dice un no che sembra un sì, però. No. Lei al posto mio cosa farebbe, dottore? Ma secondo lei c'è qualcuno? Chi lavora? Ma secondo lei c'è qualcuno dietro a questo improvviso attacco alla Volkswagen? Non mi permetterei mai di Vabbè, avrà una sua opinione personale. Non penso che ci sia dietro un disegno, assolutamente no. E che cosa pensa? Guai. Penso che la casa automobilistica sarà in grado certamente a fare tutto il necessario. Ma lei crede che il governo tedesco sapesse tutto? E come faccio a dirlo? Io sono un semplice cittadino italiano. Un semplice cittadino italiano che lavora con i tedeschi da tanti anni, mi dice. Io ho sempre reputato i tedeschi persone estremamente serie, almeno come gli italiani, insomma. Insomma, i tedeschi seri almeno come gli italiani, non male. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, potete scrivere o telefonarci o mandare le vostre riflessioni. Mario, ma quanto vale il mercato della Volkswagen in Italia? Ma il solo indotto, che è la parte industriale non commerciale, quindi molto interessante, sono 1,5 miliardi di euro. tanta roba, no? Certo. E poi bisogna tenere presente l'effetto macro, cioè il settore dell'auto oggi traina la produzione industriale, se voi pensate che traina la ripresa, quel po' di ripresa più 44%, che c'è, esatto. Quindi se soffre, poi soffre anche tutto. Il PIL. Ecco, ma è merito intanto questo più 44, è merito della Fiat Chrysler di Marchionne? Beh sì, siamo attaccati alla Jeep di Marchionne, non ci sono dubbi, però, e quindi uno dice vabbè, quindi non è colpito, no, perché tutto il settore comunque in questo momento sta soffrendo, almeno sul mercato finanziario, diciamo, borsistico. Quindi insomma bisogna andarci cauti, perché affondando Volkswagen poi finisci per affondare tutta la barca. Ecco Pietrangelo, tu conosci bene la cultura della Germania, questo mito tedesco è finito, abbiamo visto gli aerei che cadono e i piloti che non sono controllati, adesso i trucchi della Volkswagen, insomma. Secondo me entra sempre il grande gioco, e cioè l'unico soggetto forte, potente nel continente europeo, almeno nella parte occidentale del continente europeo, è la Germania. La Germania noi l'abbiamo conosciuta attraverso la sua filosofia, ed è una potente e importante filosofia, attraverso la sua letteratura, ed è una potente e importante letteratura, attraverso la sua tecnologia. Per esempio, cade a fagiolo. O si parla di macchine o si parla di altre cose. Quando si parla di macchine, per esempio, ecco, quando si parla di automobili, si parla di Audi, di Mercedes, di BMW, di Volkswagen. Quando si parla di altre cose, la musica cambia. Come delizioso andare sulla carrozzella. Perché la Germania ha saputo creare più che un mito, un'automobile che è cattiva, potente su strada, sicura e che è bene sì sporca, perché la scorreggia nella marmitta è il fondamento di tutto. E quindi il mito tedesco è ancora una volta quello che nella cattiva digestione può anche liberare una nube di crauti. Comunque il mito delle automobili tedesche pare non essere stato scalfito per un grande giornalista come Vittorio Feltri. Vittorio, pensi che Volkswagen abbia tradito i consumatori? Credo di no, io penso piuttosto che la Volkswagen si sia difesa dagli attacchi sconsiderati degli ecologisti che vorrebbero azzerare qualsiasi sostanza nociva per la salute. Ecco, ma lo scandalo, tu pensi che lo scandalo avrà ripercussioni sul governo di Angela Merkel oppure no? Non credo, perché tra pochi giorni questa cosa sarà dimenticata, quantomeno dai clienti della Volkswagen. Ma perché la Merkel, ma la Merkel poteva non sapere una cosa del genere? Ma sicuramente poteva non saperlo, perché la Merkel fa di tutto nella vita, ma non penso che... Pensa ai motori. Senti, però Veronica De Romanis, che è un'amica della Merkel, sua biografa, dice che se veramente avesse saputo qualcosa si dovrebbe dimettere. Pensi anche tu? Beh, se l'avesse saputo è chiaro che a questo punto saremmo di fronte a una signora complice. E siccome io a questo non voglio credere, sono sicuro che non ci sia bisogno che si dimetta. Certo. Sarebbe un guaio per la Germania. Senti Vittorio, ma questa guerra così all'improvviso ti puzza di bruciato? No, qualche sospetto mi viene, perché gli americani hanno tutto l'interesse a tenere bassa l'economia europea, soprattutto della Germania, che è il paese più importante. E mi domando se le automobili americane vadano ad acqua. Senti, quindi ti vengono dei dubbi a stelle strisce, diciamo così? Sì. Intendiamoci, non ho nessuna certezza, no, però naturalmente, il sospetto ce l'ho. Pensi che ci saranno ripercussioni complessive sul mercato dell'auto o, come hai detto prima, è una bolla che si spegnerà in fretta? Ma nell'immediato ci saranno delle ricadute negative e queste le stiamo verificando, ma tra non molto tempo tutto riprenderà come prima, perché all'automobile non rinuncia nessuno, e naturalmente qualche ripensamento sul diesel ci potrà essere, ma non sarà determinante. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Tu, Pietrangeli, pensi che c'è qualcosa a stelle strisce dietro? Allora, una nota romantica intanto, e poi arrivo alle stelle strisce. Volkswagen significa macchina del popolo. E qualcosa vuol dire? Vuol dire che quel marchio è radicato nell'identità tedesca. E le stelle e le strisce. Allora, gli ascoltatori ricorderanno, e tutti noi ce lo ricordiamo, quando improvvisamente scoppiò la polemica, per dire, a proposito di Nike che utilizzava il lavoro minorile per la produzione delle scarpucce e di tutto il resto. Improvvisamente questa polemica si è spenta. Invece, se la marmitta fa la scorreggia, se ne fa adesso un fatto epocale. Retroscena, non lo so, però quando qualcuno dice no si ritrova o criminalizzato o ridicolizzato. Per il criminalizzato è sufficiente l'etimo del Volkswagen, per ridicolizzato l'idea che etci, uno starnuto, possa significare che tutto è inquinato. Senti, e per te, Mario, lo zampino americano, cioè, ti insospettisce? Ma la parola complotto non fa parte del mio vocabolario, non la userò. Però, insomma, mi pare evidente che lo scandalo della Volkswagen abbia creato l'occasione, diciamo, no? Wall Street, d'altronde, è guidata dal settore high-tech, e lo sanno anche i sassi oggi, che Apple, Google, Tesla e altri titani del settore stanno investendo nella ricerca sull'automobile, che non è col motore a scoppio, o quantomeno non lo sarà in prevalenza, ma elettrica. E quindi il reale vincitore di questa guerra per il momento pare essere proiettato sull'auto ibrida. La produzione di auto diesel, come diceva Vittorio Feltri, soffrirà sicuramente in futuro. Tieni presente che l'eco diesel di Volkswagen aveva conquistato il mercato americano. Anche questo sarà un caso, però lo segnalo. Certo, appena conquistato il mercato capita lo scandalo. Dire, nel 2006, è una coincidenza. Nel 2006 il 13% solo degli americani pensava di comprare un'auto diesel. E oggi quel numero è del 40%, sono dati del Diesel Technology Forum. La maggioranza è un mercato conquistato dalla Volkswagen in maniera globale, ecco, in particolare in America, quindi è molto, insomma, il complotto non c'è, però poi uno guarda le cose e dice vabbè. Però allora ti faccio un'altra domanda, Mario. Tu pensi che il governo e il congresso degli Stati Uniti daranno una mano all'industria dell'auto europea per riprendersi? Io sapevo che mi avresti fatto questa domanda, Minoli, e non rispondo né sì né no. Lascerò che parlino i numeri. Dacci un po' di numeri. Ti dico solo, nel 2012, tu sai che la politica americana è finanziata col denaro dei privati, ebbene nel 2012 i costruttori di automobili hanno versato ai singoli deputati e senatori e ai partiti americani 33 milioni di dollari. Sono quasi tutti americani. Vi do il dato della Volkswagen, così potete subito sorridere. Nel 2012 la Volkswagen ha versato, sai quanto? Quanto? $14,850. Ah, come me, più o meno come me. di cui, scusa, $7,500 a Obama. Ora, altre briciole, altri candidati. Non potranno ottenere grandi vantaggi. Insomma, no? Secondo te il legislatore americano a chi darà ragione? Ma non lo so, certo. Così, mi pare chiaro. Insomma, tu, Pietrangelo, che ne pensi? Allora, per pensarla meglio, voglio offrire agli ascoltatori e anche a noi, perché no, perché è un godimento, un testo, una canzone, una bellissima esecuzione musicale di Eugenio Finardi, Diesel. E il ritmo della vita è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel, il ritmo delle cose, è la nuova propulsione per la nuova situazione. Vabbè, insomma, vedremo se questo Diesel vince o no la sua battaglia nel mondo e con quali alleati soprattutto. Il presidente del Consiglio Renzi dice di non essere preoccupato dallo scandalo. Ma come abbiamo visto, la produzione industriale, Mario ce l'ha spiegato bene, oggi dipende molto dal settore automobilistico. Confermo, e lo sarà per a lungo. Riccardo Nencini, vice ministro delle infrastrutture e trasporti. Onorevole Nencini, ma c'è da preoccuparsi per la ricaduta sull'Italia dell'affare Volkswagen? C'è da preoccuparsi in due modi. Il primo è il danno alle imprese italiane che collaborano anche con Volkswagen, probabilmente, certo, con Skoda e con Audi. e secondo il fatto che siamo stati oggetto di una truffa colossale. Certo, senta, il vice direttore della Banca d'Italia proprio ieri, Signorini, ha detto che le ripercussioni del caso Volkswagen sono certe ma difficili da quantificare. Bisogna aver paura. Bisogna temerle più che aver paura, non in maniera, non vedo un cataclisma alle porte. La previsione è che le imprese italiane che lavorano per il colosso automobilistico abbiano alla fine dell'anno ciascuna circa 1,5 miliardi complessivamente di danni di lavoro. Lavoro. Bisogna capire quanto di questo lavoro viene perso, certo. Ma la ripresa industriale, però, è quella che stiamo vedendo, è trascinata dal settore automobilistico. E allora si ferma la ripresa mentre parte? Il settore automobilistico è uno di quelli che vanno per primi in crisi e per primi ripartono. Ma adesso si fermerà di nuovo? Insieme all'edilizia. No, non è assolutamente detto. Potrebbero avere dei problemi le imprese che lavorano per Volkswagen, certo, e ditte collegate e marchi collegati, ma nel suo insieme è una fattispecie di mercato che non vedo assolutamente toccata complessivamente. Senta, ma in Germania il governo sembra ogni giorno più incerto e più in difficoltà. Lei vede rischi per la Merkel? Beh, insomma, se questa cosa non c'era stata sarebbe stato meglio. Il 2015 non è stato un buon anno per la Germania. Ho visto anche, lo ricordo, il danno provocato dall'aver modificato il Libor da parte di Deutsche Bank, 2,5 miliardi pagati come penale. Ricordo qualche altro caso. Senta, onorevole Nencini, il governo italiano ha stabilito controlli su 1,000 prototipi che circolano. Quanto costerà questo controllo? Lo stiamo verificando ora, domani dovrei avere dei dati precisi. È un controllo atipico perché andiamo a farlo prendendo auto direttamente dai concessionari e utilizziamo i laboratori più vicini al concessionario da dove prendiamo le auto. Ma se si scoprirà che i software montati sulle auto sono truccati, il governo cosa farà? A varie ipotesi, ricorrere attraverso Bruxelles a un tribunale nel quale difendere le proprie ragioni, che sono di due tipi sicuramente: difesa del cittadino truffato, ma c'è stato un danno probabilmente anche procurato alla concorrenza, oppure, come ha ricordato Del Rio, class action. Class action fatta dal governo contro la Volkswagen? Quello che noi a oggi vediamo sono class action che vengono fatte da associazioni e da privati. C'è una tradizione anglosassone, americana, molto forte, per noi sarebbe una novità assoluta. Da verificare se il governo la può fare o non possa farla, ma comunque altre strade che possono essere decisamente seguite. Ma quindi chiedere un rimborso alla Volkswagen o con la class action oppure l'automobilista truffato, insomma? Potrebbe intanto costituirsi parte civile quando avrà accertato la quantità e la qualità del danno, e dovrebbe farlo in Germania perché lì è avvenuto il caso. Senta, ma in tutto questo pasticcio molti pensano anche a una guerra senza esclusione di colpi tra Stati Uniti e Europa. Lei ci crede? Ma posso far peccato se sono sospettoso, come si diceva fino a qualche anno fa. A oggi rimaniamo ai fatti, e i fatti dicono che è stato montato un software truccato, ha provocato un danno di immagine e di sostanza. Sono in corso azioni per verificare quanto grande sia in Italia. Senta, ma ha sentito la dimensione dei finanziamenti delle case automobilistiche ai partiti americani? Sono molto alti, una lobby molto forte. Possono avere un peso? Le lobby forti hanno sempre un grande peso. Penso a quella del tabacco negli Stati Uniti, penso a quella delle armi. Anche in Italia quella del tabacco, mi pare. Senta, ma non è il peso degli Stati Uniti? No, certo che no. Senta, in America le regole per stabilire le emissioni sono diverse da quelle europee. Perché non chiedere uno standard unico e così il problema in qualche modo si semplifica? Noi dovremmo avere uno standard unico e più stringente dentro l'Unione Europea. Potremmo adottare anche parametri più incisivi, come sono quelli degli Stati Uniti. Fatto sta che la fotografia che abbiamo di fronte ci dice che i controlli fatti fino ad oggi non si sono rivelati assolutamente sufficienti. Ecco, ma alla fine di questa battaglia vincerà il motore ibrido? Alla fine vince il cittadino. Questo vince il cittadino se sarà rimborsato quando è stato truffato. Esattamente. importante relazione che il governo pensa di fare, ecco. Proteggere il suo cittadino truffato per l'auto taroccata. E dal punto di vista tecnico ha un'idea se il motore ibrido è un futuro? Nelle città il futuro è dato dai mezzi a trazione elettrica. Siamo in grande ritardo in Italia e in Europa, ma non ho dubbio. Giolitti all'inizio del Novecento voleva mettere al bando la bicicletta perché la riteneva uno strumento diabolico e anche estetico. Non aveva capito. 800 24 00 24, telefonate 349 238 6666 per gli sms, anche con i vostri commenti, sms, telefonate. Torniamo dopo la pubblicità. Mix 24. Vabbè, tantissime le reazioni naturalmente dei nostri ascoltatori, abbastanza uniformi nell'attaccare Gumpel per la sua difesa, diciamo così, un appassionata, po' critica, appassionata. Ma insomma, se gli tocchi la Germania, questi tedeschi in realtà reagiscono con una violenza davvero interessante. Vedere come. Ma abbiamo il telefono Francesco. Buongiorno, mi dica. Senta, io sono di professione avvocato e quando sono successi scandali in Italia noi non abbiamo fatto sconti a nessuno potente, abbiamo attaccato le banche sui bond argentina. Ora su questo fatto della Germania il sistema sta reagendo in modo secondo me scomposto, perché tutti trascurano che comunque chi ha comprato una Volkswagen ha subito una truffa penalmente rilevante, perché c'è stato l'artificio, il raggiro e il guadagno dell'azienda. Poi ci sono altri due profili gravissimi e mi meraviglio che le altre compagnie automobilistiche non reagiscano. C'è la concorrenza sociale. Ma dovremo vedere poi alla fine le indagini come vanno a finire, perché insomma mi sembra che ci sia un silenzio che ha anche un pochino caratteristiche, non dico di complicità, però certo le analisi saranno difficili. Ma se venisse fuori che c'è il sistema, ma poi c'è un altro problema, il profilo del danno ambientale. Sì. C'è stato un danno ambientale perché la Volkswagen e tutte le autovetture dovevano ridurre le emissioni attraverso... Naturalmente, però hanno fatto un software che inganna e quindi questo è il problema. Grazie. Perché dobbiamo fare sempre i complottisti, scrive Antonio. Caro Mario, ce l'ha con te. La Volkswagen ha imbrogliato, ce n'è già abbastanza. Però, dice Antonio. A me colpisce il fatto che Volkswagen abbia versato solo 14.000 e rotti euro, no? Ai politici americani. Quella è una notizia sicuramente. E tra dealers e costruttori come, 33 come milioni. Anche voi una che notizia dite? Il fatto che il governo si costituisce parte civile. Perché mi sembra ci pensa, secondo me. Il governo italiano, parte civile. Vabbè, contro... ma è una dichiarazione del governo. Non è una cosa fatta. Non è fatta, ma insomma. No, ma che le parole non seguono i fatti, questo vuoi dire? No, si apre un dibattito, però. Scusa, il nostro primo partner commerciale è la Germania. Che facciamo? Si schieriamo contro di loro? Meraviglioso. Insomma. Abbiamo ancora una telefonata? Lucio. Buongiorno. Buongiorno. Lucio, dica. Io sono un odontoiatra, ma ormai più seduto in macchina che non ho la poltrona, visto il momento contingente. Io sono abituato a guardare, come sempre, ma anche il versante nostro, cioè adesso l'Italia... Sì, forse non si schiererà contro la Germania, però sicuramente siamo tutti... E allora la sua considerazione qual è? La mia considerazione è che comunque loro le macchine le fanno meglio. Come dice Volkswagen, una Volkswagen a metano da pochi mesi ed ora finalmente una macchina. E quindi non la vuole cambiare, va bene, allora come Vittorio Feltri, anche lui. Vittorio. Grazie, e partiamo con la canzone di Pietrangelo. Felicità dei piedi stamattina uscendo con la soggezione della mattinata, mi sono accorto di un fatto meraviglioso, unico, e cioè che c'era tutta una folla di signore a piedi nudi, ma non è che camminassero scalze per la strada, al contrario, pilotavano, guidavano, veleggiavano su meravigliose automobili tedesche. Ti diverti? Piedi nudi, hai capito? Il parco delle macchine tedesche. Mario, la tua bolla cattiva qual è? Vai con l'occhio. Okay. uno sente Bill Conti e anche se sta male corre, è troppo bello. Allora, ho letto stamattina un titolo, letto sul Corriere della Sera ed ero molto incuriosito, ovviamente stamattina prestissimo, è ancora buio, e Renzi che diceva all'ONU siamo pronti a un ruolo guida in Libia. E io francamente ho detto vabbè, è una notizia, però sono andato a vedere poi a cercare di capire che cosa è il nostro ruolo guida. Giovanni, non l'ho capito. Senti. Cioè, ragazzi, cosa andiamo a fare in Libia? Io lo vorrei capire, perché per esempio Renzi si è espresso nettamente contro il raid della Francia, è una posizione, però non ha mai chiarito qual è la proposta italiana. Non lo so, vogliamo guidare cosa? Per esempio una coalizione militare che mette ordine al caos libico e quindi speriamo che ISIS sparisce, i libici fanno pace e noi arriviamo dopo con calma con una missione di peacekeeping. In Iraq vogliamo solo addestrare l'esercito iracheno come abbiamo fatto, tra l'altro, scusate, con fughe di deserzioni di massa in quell'esercito, quindi andiamoci cauti. O partecipiamo alla futura espansione della campagna militare in Siria, per esempio, cosa vogliamo fare? Partecipiamo ai bombardamenti che ci saranno, diamo supporto logistico e basta? Cioè, a New York Obama e Putin non hanno trovato un accordo, però si dice forse faranno dei raid assieme. E infine la domanda delle domande, che non ha trovato secondo me una soluzione: stiamo con Obama o stiamo con Putin? Oppure stiamo in mezzo all'italiana, che significa alla fine non avere nessuna posizione. E dunque questo canto forse noi non lo realizzeremo mai. Oggi parliamo di Volkswagen e noi nel nostro magazzino della storia abbiamo trovato una chicca. Il discorso di Hitler al Salone Automobilistico Internazionale del 1935, quando annunciava la nascita del maggiolino della Volkswagen, che Porsche realizzò su precisa e diretta idea e anche disegno di Hitler. Sentite le parole di Hitler. Mi rallegro che l'abilità di un brillante progettista e la collaborazione del suo staff siano riusciti a mettere a punto i progetti preliminari per la macchina del popolo tedesco. I primi esemplari potranno essere collaudati a partire dalla metà di quest'anno. In quel momento capirete perché io abbia voluto con incrollabile determinazione che questo progetto andasse avanti fino alla sua conclusione e, aggiungo signori, fino alla sua felice conclusione. Non c'erano ancora i verdi in quell'epoca. Quindi no, c'erano i Van der Vogel ed erano parte cattivi, fondante del Partito Nazionale Socialista. Vabbè, quindi adesso è cambiato tutto. Salamino! Buone notizie, come si dice Mario? Good news? Good news. Allora, good news. Vuoi incontrare un po'? Come? Good news. Good news per tutta l'Italia. Sto Matteo Renzi, detto Matthew, si dice Matthew? Matthew. È troppo cool, si dice cool? Si cool. Dice cool. Ha parlato all'Assemblea delle Nazioni Unite, però dovrei stigmatizzare quello che ha detto Mario, perché Mario secondo me è stato troppo critico. No, sulla questione, dai, sono stato buono. Sei stato critico sulla questione della Libia, sei stato criticissimo, non è giusto, perché dai, quando parla lui non ce n'è per nessuno, per esempio. Quando lui ha detto supereremo la Germania, supereremo la Germania, tutti i giornali ne hanno parlato, nessuno però ha cercato di capire come, dove, quando. Per esempio nella tecnologia, nella ricerca scientifica, nell'industria chimica, in quella pesante, in quella automobilistica. Ci sono i dettagli, buoni dettagli. Sì, pretendi troppo. Noi dobbiamo limitarci a dire supereremo la Germania e la Germania già. Evviva. E la Germania già risponde. Le Sturmtruppen sono in marcia e Matthew, si dice Matthew, parla all'ONU e dice, testuale, dice l'Italia ha rotto l'incantesimo, motivo per cui mi sono chiesto chissà come avrà fatto a rompere l'incantesimo. Se io fossi realmente un uomo magico, fermerei le guerre, ma il desiderio di magia non basta per togliere dal mondo tutta la gente guasta. Io l'ho capito, altro che Mogherini che l'ha mandata a parlare con l'afro, il ministro degli esteri russo. E quello è bravo però. Lui ma Matthew si appoggia a Silvan. E siccome ci sono queste news che sono solo good news, il Corriere good della news. Sera, che è la coscienza critica d'Italia, ma è chi? Vero, sì, certo, il giornale critico per eccellenza, no. Ha detto che c'è l'enfasi ha stigmatizzato, così come io stigmatizzo Mario. Ma che oggi fai? Mi stigmatizzi? E certo, tu critichi Matteo Renzi, Matthew, quello che porta le good news, good, si dice good? Good. Dai, good news, però dice un Corriere della Sera, l'enfasi è più che giustificata. Perché? Perché Matthew offre brulle, mille bolle blu, brulle per il mondo. Beh, mica mai. E le mille bolle blu, quello offre caschi blu dappertutto. Ma dove c'è bisogno? Vero. Sì, sì, è c'è vero. Bisogno di una cosa, un casco blu, anche qua, Mario, guardalo. Se lo osservi, ascoltatori, immaginate, Mario, sai che accanto c'ha un casco blu. Oh, lui poi chiede un seggio, sia esso con la permanente o senza il Consiglio di sicurezza, e si offre, tenetevi forte, si offre, Matthew, si offre come cerniera tra Mosca e Washington. Infine, quando ha finito il suo discorso, lui si è preso tanto di altoparlante e ha dato di sé la sua vera immagine. Sapete qual è? Quella. È questa. Ripariamo cucine a gas, fornelli a gas. Abbiamo tutti i pezzi. Insomma, sa fare tutto. No, è l'uomo che cattivo. Tutto il mondo ci invidia. Però resta una domanda. Chissà perché il mondo non se lo prende? Ripariamo cucine a gas, fornelli a gas. Ripariamo, ma scusa, ma abbiamo tutti i pezzi. Io ero quello cattivo. Le cose in Italia vanno meglio. Le notizie, le good news arrivano sul serio, Mario. Tutti sì. Sul Rai 3. Ce l'hai ancora una bolla? Io ho una bolla. Ma gli ACDC, dai, sì. Ma c'era una cosa bella di Shinzo Abe, visto che eravamo all'ONU anche con Pietrangelo, eccetera, e siamo andati in metropolitana tutte e due. E c'è una dichiarazione di Abe, niente male, sulla questione dei rifugiati. Allora, loro hanno stanziato, i giapponesi, $1.5 miliardi per aiutare le persone in Siria e in Iraq. Ma quando gli hanno chiesto, ma cosa farete con i rifugiati? Lui ha risposto così. È una questione di demografia. Prima di accogliere immigrati o rifugiati, dobbiamo avere più attività per donne e anziani e dobbiamo incrementare il nostro tasso di natalità. Ci sono molte cose che dovremmo fare prima di accogliere migranti. Molto interessante. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS viabilità. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta. Mix 24. Pietrangelo, siamo tornati anche col canzoniere. Canzoniere. E non potete voi, per via indiretta, trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. È un pazzo furbo, svicola sempre. Chissà chi era. Un pazzo furbo che svicola sempre. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS se indovinate. Intanto, Mario, c'è un'ultima bolla. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. E il nostro Gordon che dice, appunto, tutti muovono la giostra dei soldi, però questo trimestre che sta finendo della finanza è molto duro, perché in realtà è il peggiore dal 2011 in borsa. Quindi anche le previsioni, perché lo dico? Perché tutte le previsioni di crescita fatte nei documenti, appunto, del governo, non solo quello italiano ma anche di altri, probabilmente insomma devono tenere conto di questi andamenti azionari. Ci sono telefonate sul canzoniere? Non ancora? Allora risentiamo il canzoniere, perché così diamo un aiutino. Non potete voi, per via indiretta trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. È un pazzo furbo, svicola sempre. Non gli ho detto un aiutino? Pietrangio, non telefono. E come? No? È un pazzo furbo che svicola sempre. Nella storia della letteratura ce n'è solo uno. Solo uno, dai, forza. Svicola ascoltatori, sempre. Fateci fare bella figura. E se no siamo sempre troppo difficili. La bella figura la devono fare loro. No, è noi che gli proponiamo cose che indovinano. No, scusa, allora il principio è quello. Vabbè, e se non indovinate oggi, indovinerete domani. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie della ricerca medica apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine del 4 agosto 2015. Predittori dei risultati della gravidanza in pazienti con il lupus. Professor Bernabei, cosa ci dice questa notizia? Ma questa notizia è interessante perché intanto parla del lupus. Il lupus è una malattia sgradevole, una malattia in cui il corpo si rivolta contro se stesso, produce anticorpi contro i propri organi, segnatamente il rene e spesso l'insufficienza renale, infatti è il marchio definitivo di questa malattia. Ma siccome è una malattia che affligge prevalentemente le giovani donne, qua ci dice l'articolo quanto è rischioso avere una gravidanza con questa malattia. Allora, il problema è che normalmente una donna su 5, ci dice lo studio, ha problemi nel sostenere la gravidanza perché il neonato nasce piccolo e quindi tutti i problemi del basso peso, il neonato può avere una morte fetale o neonatale. E questo era qualche cosa che in qualche modo si sapeva, per cui infatti le donne con il lupus avevano molta eritrosia a rimanere incinte. Ma qui c'è un passo in più, ed è un passo che dà segnale di speranza, perché dice, sì, questo è vero per le donne che hanno il lupus e insieme al lupus una serie di fattori di rischio quantificati. La presenza degli anticorpi in circolo, diagnosticati, la presenza di un numero di piastrine basso, e l'utilizzo di ipotensivi, perché vuol dire che quindi il rene è stato compromesso, la pressione si è alzata e bisogna utilizzare gli ipotensivi. Questo è il quadro tradizionale che dà rischio, ma chi è che non ha, e ci sono donne che non hanno questo tipo di problema, possono permettersi una gravidanza più o meno con tutti i problemi che hanno anche le loro colleghe senza il lupus. Quindi misuratevi eventualmente i fattori di rischio, se non ci sono andate tranquille e la gravidanza andrà via senza problemi. Tra pochi minuti qui a Mix 24 il giallo della storia, una storia vincente, drammatica, attualissima, ma prima ascoltiamo questo file. Massacrato per non aver voluto tradire Palmira fino all'ultimo, Khaled al-Assad sarebbe morto perché si era rifiutato di rivelare all'ISIS dove siano stati nascosti i tesori di Palmira. La sua morte ha sconvolto gli studiosi di tutto il mondo. L'archeologo siriano, per 50 anni a capo delle antichità nel sito di Palmira, è stato decapitato dopo un mese di prigionia. Il corpo dell'81enne studioso, una volta decapitato, è stato appeso a un palo della luce. Ultimo sfregio non solo a un grande intellettuale, ma alla cultura millenaria di un luogo considerato uno dei tesori mondiali dell'archeologia. Il direttore del museo di Palmira, avete sentito, ha prima catalogato, poi nascosto i tesori del suo museo e li ha sottratti, ha tentato di sottrarli all'avidità e alla folle ideologia dei miliziani dell'ISIS. Dunque coraggio e passione per l'arte più forte della vita. Ecco, oggi in Siria, ieri in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, la scena, la Rocca di Urbino, poi Palazzo Carpegna nelle Marche, infine il Vaticano. I protagonisti, Pasquale Rotondi, un irriducibile funzionario del Ministero dell'Educazione Nazionale, un autista fidato, una balilla scassata e centinaia di casse piene di opere di inestimabile valore. È il giallo di Pasquale Rotondi, lo Schindler italiano dell'arte, in fuga sotto le bombe per salvare migliaia di capolavori dalle razzie dei nazisti. Qui a Mix 24, tra pochi minuti, subito dopo il giornale radio, il giallo della storia.